Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Sesta puntata. Da una parte c'erano Gino e Rasetti con le montagne, le rocce nere, i cristalli, gli insetti. Dall'altra parte c'erano Mario, mia sorella Paola e Terni, i quali detestavano la montagna e amavano le stanze chiuse e tiepide, la penombra, i caffè. Amavano i quadri di Casorati, il teatro di Pirandello, le poesie di Verlaine, le edizioni di Gallimard, Proust. Erano due mondi incomunicabili. Io non sapevo ancora se avrei scelto l'uno o l'altro. Mi attiravano tutti e due. Non avevo ancora deciso se, nella mia vita, avrei studiato i coleotteri, la chimica, la botanica, o se invece avrei dipinto quadri o scritto romanzi. Nel mondo di Rasetti e di Gino era tutto chiaro, tutto si svolgeva alla luce del sole, tutto era plausibile, non c'erano misteri o segreti. E invece nei discorsi che facevano Terni, la Paola e Mario sul divano in salotto c'era qualcosa di misterioso e di impenetrabile che esercitava su di me una mescolanza di fascino e di spavento. «Cos'ha Terni con Mario e Paola da ciucciottare?» diceva mio padre a mia madre. «Stanno sempre lì, in un angolo, a ciucciottare? Cosa sono tutti quei fufignezzi?» I fufignezzi erano per mio padre i segreti e non tollerava vedere la gente assorta a parlare e non sapere cosa si dicevano. «Parleranno di Proust?» diceva mia madre. Mia madre aveva letto Proust e lei pure, come Terni e la Paola, lo amava moltissimo. E raccontò a mio padre che era questo Proust uno che voleva tanto bene alla sua mamma e alla sua nonna e aveva l'asma e non poteva mai dormire. E siccome non sopportava i rumori, aveva foderato di sughero le pareti della sua stanza. Disse mio padre, «Doveva essere un tanghero?» Mia madre non aveva scelto né l'uno né l'altro di quei due mondi, ma abitava un po' nell'uno e un po' nell'altro. E nell'uno e nell'altro stava con gioia, perché la sua curiosità non respingeva mai nulla, ma si alimentava ad ogni qualità di bevanda o di cibo. Mio padre, invece, usava gettare sulle cose nuove, che non conosceva, uno sguardo torvo e pieno di sospetto. E i libri che Terni portava in casa, lui temeva sempre che non fossero adattati per noi. «Sarà adattato per la Paola?» chiedeva mia madre sfogliando la recherche e leggendone qua e là qualche frase. «Deve essere roba noiosa», diceva poi buttando via il volume. Il fatto che fosse roba noiosa lo rassicurava un poco. Quanto ai quadri di Casorati di cui Terni ci portava le riproduzioni, mio padre non li poteva soffrire. «Sgarabazzi, sbrodighezzi», diceva. La pittura del resto non lo interessava affatto. Andava con mia madre nei musei di quadri quando erano in viaggio, accordando ai pittori antichi come Goya o Tiziano, per il fatto che erano ormai universalmente riconosciuti, giubilati, una certa legittimità. Voleva però che quelle visite ai musei fossero rapidissime e non permetteva a mia madre di sostare davanti ai quadri. «Lidia, vieni via, andiamo!» diceva trascinandola via. Aveva in viaggio sempre una gran fretta. Anche mia madre, del resto, non si interessava molto alla pittura. Conosceva però Casorati di persona e lo trovava simpatico. «Che bella faccia che ha Casorati», diceva sempre. Siccome gli trovava una bella faccia, accettava anche i suoi quadri. «Sono stata nello studio di Casorati», diceva mia sorella rientrando. «Com'è simpatico Casorati, che bella faccia», diceva mia madre. «Cosa diavolo va a fare la Paola nello studio di Casorati?» diceva mio padre con cipiglio e sospetto. Mio padre temeva sempre che noi ci mettessimo in qualche pasticcio, cioè che ci trovassimo intrappolati in oscure trame amorose, e dovunque vedeva minaccia alla nostra castità. «Niente, c'è andata con Terni. Sono andati a salutare l'Anella Marchesini», gli spiegava mia madre. Il nome dell'Anella Marchesini, amica d'infanzia di mia sorella che mio padre conosceva bene e stimava, bastava a rassicurare mio padre. L'Anella Marchesini studiava pittura con Casorati e la sua presenza in quello studio mio padre la considerava legittima. Non sarebbe bastata a rassicurarlo invece la compagnia di Terni, che lui non considerava per noi un'autorevole protezione. «Quanto tempo ha da perdere quel Terni?» osservava. «Farebbe meglio finire il suo lavoro sulla patologia dei tessuti? È un anno che ne sento parlare!» «Sai che è antifascista, Casorati?» diceva mia madre. Gli antifascisti diventavano col tempo sempre più rari e mio padre, quando sentiva che ce n'era uno, subito si rallegrava. «Oh, antifascista? Ah, davvero?» diceva con interesse. «Però i suoi quadri sono dei gran sbrodeghezzi. Possibile che alla gente gli piacciano?» Terni era molto amico di Petrolini e quando venne Petrolini a Torino per una serie di rappresentazioni, Terni aveva quasi ogni sera biglietti di poltrona in omaggio che regalava ai miei fratelli e a mia madre. «Che bellezza!» diceva mia madre nella giornata. «Anche stasera si va a sentire Petrolini. Andiamo in poltrona, come mi piace andare a teatro in poltrona. È così simpatico Petrolini, così spiritoso. Gli sarebbe piaciuto molto anche al Silvio». «Allora anche stasera mi pianti solo?» diceva mio padre. Mia madre gli diceva: «Ma vieni anche tu, Peppino!» «Ma che?» urlava mio padre. «Figurati se vengo a sentire Petrolini! Mi importa assai a me di Petrolini, pagliaccio!» «Siamo andati coi Terni a salutare Petrolini nel suo camerino», diceva mia madre il giorno dopo. «È venuta anche Mary. Loro sono molto amici di Petrolini». La presenza di Mary, la moglie di Terni, era agli occhi di mio padre una presenza autorevole e rassicurante, perché lui nutriva per Mary la più alta ammirazione e stima. La presenza di Mary valeva ad accordare una legittimità e un decoro a quelle serate a teatro e anche forse un poco alla figura di Petrolini, che però lui continuava a disprezzare, immaginando che dovesse per recitare mettersi un naso finto e ossigenarsi i capelli. «Non capisco come mai Mary sia tanto amica di Petrolini», diceva con profondo stupore. «Non capisco come mai si diverta tanto a sentire Petrolini. Capisco, Terni e voi altri, che vi piacciono tanto i sempiezzi. Com'è che loro sono tanto amici di Petrolini? Deve essere una persona equivoca». Per mio padre, un attore, e in special modo un attore comico, che faceva smorfie sulla scena per far ridere la gente, doveva essere senz'altro una persona equivoca. Mia madre gli ricordava tuttavia che suo fratello Cesare aveva passato la vita in compagnia di attori e aveva sposato un'attrice. Non potevano essere tutte quelle persone che suo fratello usava frequentare, non potevano essere sempre gente equivoca, anche se venivano in scena travestiti o se si tingevano i capelli e i baffi. «E Molière?» gli diceva mia madre. «Molière non faceva anche lui l'attore. Non direi mica che era una persona equivoca». «Ah, Molière», diceva mio padre, che aveva per Molière la più grande stima. «Molière è bellissimo. Il povero Cesare aveva una passione per Molière. Ma non vorrei mica mettere Molière con Petrolini?» urlava alla fine, con una di quelle risate tuonanti che rovesciavano su Petrolini il più acuto disprezzo. A teatro ci andavano di solito mia madre, la Paola e Mario, e ci andavano di solito con i Terni, i quali, se non avevano, come per Petrolini, poltrone in omaggio, avevano però sempre un palco e li invitavano. Perciò mio padre non poteva dire «Non voglio che buttiate via i soldi a teatro». Inoltre, vedeva con benevolenza una serata di mia madre con Mary. «Hai sempre a divertirti?» diceva però a mia madre. «Mi pianti sempre?» «Ma tu la sera te ne stai sempre là, rinchiuso nel tuo studio», diceva mia madre. «Non mi dai spago? Non mi fai compagnia?» «Che asina», diceva mio padre. «Lo sai che ho da fare. Non ho tempo da perdere come voi altri. E poi non t'ho mica sposato per tenerti compagnia?» Mio padre la sera nel suo studio lavorava, cioè correggeva le bozze dei suoi libri e vi incollava certe illustrazioni. A volte, tuttavia, leggeva romanzi. «È bello quel romanzo, Beppino?» chiedeva mia madre. «Ma che? Una noia? Un sempiezzo?» rispondeva alzando le spalle. Leggeva però con la più viva attenzione e intanto fumava la pipa e spazzava via la cenere dalla pagina. Quando tornava da qualche viaggio, aveva sempre con sé romanzi polizieschi che comprava sulle bancarelle delle stazioni e finiva di leggerli là nel suo studio la sera. Erano di solito in inglese o in tedesco, sembrandogli forse meno frivolo leggere quei romanzi in una lingua straniera. «Un sempiezzo», diceva alzando le spalle, e leggeva tuttavia fino all'ultima riga. Più tardi, quando cominciarono a uscire i romanzi di Simenon, mio padre ne divenne un lettore assiduo. «Non è mica male, Simenon», diceva. «Descrive bene quella provincia francese. Quell'ambiente di provincia è molto ben descritto». Ma allora, negli anni di Via Pastrengo, i romanzi di Simenon non esistevano ancora e i libri che mio padre portava dai suoi viaggi erano certi volumetti lucidi con figure di donne sgozzate in copertina. Mia madre, trovandoglieli nelle tasche del cappotto, diceva «Ma guarda che sempiezzi che legge questo Beppino». Terni aveva creato fra la Paola e Mario una connivenza che persisteva anche quando lui se ne andava. Era una connivenza votata, per quanto potevo capire, all'insegna della malinconia. La Paola e Mario facevano passeggiate malinconiche, o loro due insieme o ciascuno per conto proprio, al crepuscolo, in raccolta solitudine. E insieme leggevano poesie tristi, mormorandole in un dolente bisbiglio. Quanto a Terni, lui non era affatto, se ricordo bene, una persona così malinconica. Lui non era attratto in special modo dai luoghi abbandonati e silenziosi, né faceva mai passeggiate malinconiche e solitarie. Terni viveva in modo perfettamente normale. Nella sua casa, con la moglie Mary e la bambinaia Assunta e i suoi figli Cucco e Lullina, che lui e la moglie viziavano e davanti ai quali usavano entrambi estasiarsi. Ma Terni aveva portato in casa nostra il gusto della malinconia, degli atteggiamenti malinconici, così come aveva portato la Nouvelle Revue Française e le riproduzioni di Casorati. E la Paola e Mario avevano raccolto quell'invito. Non Gino, che non piaceva a Terni e a cui Terni non piaceva affatto. Non Alberto, che si infischiava di poesia e di pittura e dopo la vecchia zittella senza mammella non aveva mai più fatto poesie e pensava soltanto a giocare a football. E non io, che non mi interessavo molto a Terni e non vedevo in lui che il padre del Cucco, bambino col quale a volte giocavo. Mostravano la Paola e Mario, perduti nella loro malinconia, una profonda insofferenza per il dispotismo di mio padre e per i costumi di casa nostra, quanto mai semplici e austeri. Avevano l'aria di sentirsi nella nostra casa in esilio, sognando tutta un'altra casa e tutte altre abitudini. La loro insofferenza si traduceva in grandi musi e lune, sguardi spenti e facce impenetrabili, risposte monosillabiche, rabbiosi sbatter di porte che facevano tremare la casa e recisi rifiuti ad andare il sabato e la domenica in montagna. Non appena mio padre usciva dalla stanza, loro si rasserenavano, perché la loro insofferenza non includeva mia madre, ma era votata a mio padre soltanto. Ascoltavano le storie di mia madre e declamavano a gran voce con lei la poesia dell'inondazione. Erano parecchi giorni che si tremava tutti. Mario avrebbe voluto studiare legge e mio padre invece l'aveva obbligato a iscriversi in economia e commercio, sembrandogli, non so perché, la facoltà di legge una facoltà poco seria e senza un sicuro avvenire. Mario gliene portò per anni un muto rancore. Quanto alla Paola, era in genere malcontenta della vita che faceva e avrebbe voluto avere più vestiti. E i vestiti che aveva non le piacevano, sembrandole fossero mascolini e di taglio pesante, perché mio padre voleva che ci vestissimo tutti dal sarto Maccheroni, sarto da uomo, il quale faceva spendere poco, o almeno lui si era messo in testa che facesse spendere poco. Mia madre aveva anche una sartina, la sarta Alice, a cui a volte si ricorreva, ma mia madre diceva che non era brava. «Come vorrei un bel vestito di seta pura», diceva mia sorella a mia madre quando stavano a chiacchierare in salotto, e mia madre diceva «Anch'io». E sfogliavano riviste di moda. «Vorrei», diceva mia madre, «una bella princessina di seta pura». E mia sorella diceva «Anch'io». Ma la seta pura non potevano comperarla perché non c'erano mai i soldi. E poi tanto la sarta Alice l'avrebbe sciupata, non sapendo tagliare. La Paola avrebbe anche voluto tagliarsi i capelli, portare i tacchi alti e non le scarpe mascoline e robuste che faceva il signor Castagneri, andare a ballare in casa delle sue amiche e giocare al tennis. Nulla di questo le era consentito. Le era invece quasi imposto di andare il sabato e la domenica in montagna con Gino e con mio padre. La Paola trovava Gino noioso, Rasetti noioso, gli amici di Gino in genere tutti noiosissimi e la montagna insopportabile. Sciava tuttavia molto bene, senza stile, dicevano, ma con grande resistenza alla fatica e con grande coraggio, e si buttava giù per le discese con l'impeto di una leonessa. A giudicare dall'impeto e dal furore con cui si buttava giù per le discese, io sono indotta a credere che si divertisse a sciare e ne traesse il più vivo piacere, ma ostentava per la montagna un profondo disprezzo. Diceva di avere in odio le scarpe chiodate, i calzettoni di lana e le minute lentiggini che apparivano al sole sul suo piccolo naso delicato. E per far sparire quelle minute lentiggini usava, dopo che era stata in montagna, incipriarsi il viso di una cipria bianca. Avrebbe voluto avere poca salute, un aspetto fragile e il viso di un pallore lunare, come hanno le donne nei quadri di Casorati, e si seccava quando le dicevano che era fresca come una rosa. Vedendola bianca in viso, mio padre, che non sospettava che mettesse la cipria, diceva che era anemica e le faceva prendere il ferro. Mio padre, svegliandosi nella notte, diceva a mia madre: «Che luna che hanno Mario e la Paola! Hanno fatto una gran lega loro due. Mi pare che quel sempio di Terni li ha messi su contro di me». Cosa si sussurrassero Terni, la Paola e Mario su quel divano in salotto, io non lo sapevo e non lo so ancora adesso. Ma a volte parlavano davvero di Proust. Allora anche mia madre si inseriva nei loro discorsi. «La petite phrase», diceva mia madre. «Com'è bello quando dice della petite phrase. Come gli sarebbe piaciuto anche al Silvio». Terni si levava la caramella e la tergeva nel fazzoletto al modo di Swann e faceva «Sss, che cosa grande, che cosa bella», diceva sempre Terni. E la Paola e mia madre tutto il giorno gli rifacevano il verso. «Vaniloquio», diceva mio padre, cogliendo qualche parola mentre passava. «Sono stufo di questo vostro vaniloquio», continuava dirigendosi al suo studio, e quando era là urlava «Terni! Non ha ancora finito il suo lavoro sulla patologia dei tessuti? Perde troppo tempo in sempiezzi. Lei è pigro, non lavora abbastanza. È un gran pigro». La Paola era innamorata di un suo compagno d'università. Giovane, piccolo, delicato, gentile, con la voce suadente. Facevano insieme passeggiate sul lungo Po e nei giardini del Valentino e parlavano di Proust, essendo quel giovane un prustiano fervente. Anzi, era il primo che avesse scritto di Proust in Italia. Scriveva, quel giovane, racconti e saggi di critica letteraria. Io credo che la Paola si fosse innamorata di lui perché lui era l'esatto contrario di mio padre. Così piccolo, così gentile, con la voce così dolce e suadente. E non sapeva nulla a proposito della patologia dei tessuti e non aveva mai messo piede su un campo di sci. Mio padre venne a sapere di quelle passeggiate e andò in furia. Prima di tutto perché le sue figlie non dovevano passeggiare con uomini e poi perché per lui un letterato, un critico, uno scrittore rappresentava qualcosa di spregevole, di frivolo e anche di equivoco. Era un mondo che gli ripugnava. La Paola tuttavia continuò lo stesso quelle passeggiate nonostante il divieto di mio padre e la incontravano a volte i Lopez o altri amici dei miei genitori e lo raccontavano a mio padre sapendo del suo divieto. Quanto a Terni, lui se la incontrava non andava certo a dirlo a mio padre perché la Paola si era confidata con lui sul divano in segreti bisbigli. Mio padre urlava a mia madre: «Non lasciarla uscire! Proibiscile di uscire!» Mia madre, anche lei non era contenta di quelle passeggiate e anche lei di quel giovane diffidava, perché mio padre aveva contagiato a lei una confusa, oscura repulsione per il mondo dei letterati, mondo in casa nostra sconosciuto, dato che non entravano da noi che biologi, scienziati o ingegneri. Inoltre mia madre era molto legata alla Paola e prima che la Paola avesse quella storia con quel giovane, usavano girare a lungo loro due insieme per la città e guardare nelle vetrine i vestiti di seta pura che né l'una né l'altra potevano comperarsi. Adesso, di rado, la Paola era libera di uscire con mia madre. E quando era libera e uscivano chiacchierando a braccetto, finivano poi col parlare di quel giovane e tornavano a casa arrabbiate l'una con l'altra, perché mia madre non accordava a quel giovane, che del resto conosceva appena, tutta la simpatia e la cordialità che la Paola esigeva. Ma mia madre era del tutto incapace di proibire qualcosa a qualcuno. «Non hai autorità!» le urlava mio padre, svegliandola nella notte. E d'altronde aveva dimostrato di non avere grande autorità neppure lui, perché la Paola continuò per anni a passeggiare con quel giovane piccolo e smise quando la cosa si spense da sola, a poco, come si spegne il lume di una candela, e non per volontà di mio padre, ma del tutto al di fuori dei suoi urli e delle sue proibizioni. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.